Milan, hai una faccia come dice Giachetti. Vergognati un'altra volta, Milan. Uno, uno, nessuno. Uno, nessuno, nessuno, 100 Milan. Uno, nessuno, 100 Milan. Di Alessandro Milan, con Leonardo Manera. Lascia fare, caro ascoltatore, lascia fare, che oggi il premio Giachetti tornerà in pompa magna, perché c'è da assegnarlo. C'è da assegnarlo e lo faremo tra poco. Cari ascoltatori, intanto buongiorno, ben ritrovati a una nuova puntata di Uno Nessuno 100 Milan. Siamo qui, divisi ma uniti, la nostra redazione, Lorenzo Nespoli, Emilia Lucchetti, Elisabetta Fusconi, c'è l'Alpino in regia, c'è anche un Guido Scotti, stranamente che si aggira, non lo so, è stato cooptato, gli hanno detto vieni qua, Guido Scotti come stai? Agita la mano così ti vedo? Non è vero, ma tu agitala lo stesso, ti vedo comunque, ti vedo nell'anima, nel cuore. Ale, ci siamo con voi, 800 24 00 24 è il numero per intervenire in diretta. Se volete invece scriverci, 349 238 6666, ormai i numeri li sapete a memoria, WhatsApp, audio, la mail anche 100milan@radio24.it. Che dire, cari ascoltatori, possiamo partire perché abbiamo tanti temi da raccontare oggi e si parte col nostro solito grido incerto di battaglia. Enthusiasm about the future. Allora, devo dire che io non voglio iniziare, dopo magari parleremo delle solite cose che perché veramente mi sembra di essere intrappolato nella macchina del tempo, altro che il giorno della marmotta evocato da Beppe Grillo. Questa, l'Italia, è il vero giorno della marmotta. Pensate un po', si scopre oggi dai giornali che ci sono forse le tangenti a Milano. Cioè, non vi sembra di averlo letto negli ultimi 45 anni? C'era giustamente poco fa Gerardo Colombo a parlarne, no? Oppure la politica che litiga, che dibatte sul taglio dell'IVA, no. Ma tralasciamo queste cose, mettiamolo un attimo da parte. Voglio parlare con una persona positiva della vicenda Alex Zanardi. Voglio partire da altro, per carità, e anche lei è una politica, visto che è parlamentare. Giusy Versace, buongiorno e ben ritrovata. Grazie. Buongiorno. Di essere qui. Giusy Versace, le rubiamo qualche minuto perché so che deve entrare in commissione parlamentare. La conosciamo. È uscita dalla commissione per voi. grazie. Senta, io leggo con molta attenzione. Io credo, ho detto pochi giorni fa, che c'è una notizia sulla quale tutti gli italiani sono d'accordo. Siamo un popolo di litigiosi, ma su Alex Zanardi, sul destino di questo uomo combattente, sì, tutta l'Italia è unita, no? Sì. Si leggono anche tanti articoli di quello che succederà. Vediamo il decorso clinico e gli auguriamo il meglio. Lei che lo conosce bene, che ha un destino simile, ha avuto un destino simile, c'è cioè una grande caduta e la capacità di rialzarsi, cosa ci può dire di Alex Zanardi che possa servire a tutti gli italiani che lo seguono con grande... Ma intanto insieme, un amico giornalista lo definì una volta un inguaribile ottimista, e di fatto sì, lui lo è, perché ha questa immensità caratteriale, questa grande generosità, anche questa propositività, che non può che essere contagiosa, ma meno male che è così, insomma. Poi ci accomuna il fatto di essere due persone di fede, anche lui come me, quando si è svegliato dal coma dopo il tragico incidente, ha ringraziato per quello che ancora restava e aveva, e non per quello che aveva perso. E poi c'è anche da dire che lui ha da subito messo la testa da atleta, si è posto subito nuove sfide, e questo gli ha permesso comunque di stravincere tutto quello che nella sua vita precedente magari in Formula 1 non aveva vinto. E devo anche dire che grazie a lui i riflettori accesi rimangono tali sul mondo paralimpico, e prima che lui prendesse in mano un handbike tanti non sapevano neanche cosa fosse un handbike. Ma sì, aggiungo anche che grazie, che lui fa tutto questo per se stesso, non è che lo fa per dimostrare qualcosa agli altri, che poi suo malgrado, come nel mio piccolo anch'io, nel mio percorso di atleta paralimpica, tutto quello che di buono fai lo metti a disposizione degli altri anche attraverso delle iniziative solidali, può essere da stimolo per altri, ben venga, perché questo ci aiuta anche a dare un senso a quello che ci è capitato. Sì, il fisico d'atleta aiuta, spesso si dice questa cosa, lui ha un grande fisico, anche lei ha un grande fisico, ma insomma in questi casi la reazione, anche la forza fisica, la tenacia, la resistenza del corpo umano può davvero giocare un ruolo decisivo? Sì, permettimi di dire, forse la testa vale molto di più. È la testa che ti aiuta a resistere, a non mollare, a guardare. Poi lui è nota la sua regola dei 5 secondi, no? Quando tu arrivi, sì, a un certo livello, vince chi riesce a resistere quei 5 secondi in più. Noi ci auguriamo tutti che lui resista anche più di 5 secondi e che ce la faccia anche questa volta. È un momento in cui ci dobbiamo veramente unire, e questa è la anche grande capacità dello sport, che riesce, se a volte divide, delle altre comunque unisce. E tutto questo affetto che si è generato anche, no, attorno a lui, tutti uniti in preghiera per lui, perché lui come si fa a non volere bene? È uno sempre misurato, sempre attento, sì, sempre puntuale, competente, anche come dire, poi con generosità, perché ricordiamo, a dispetto di tutti i commentini stupidi che a volte si leggono anche sui social, che insomma lui era in strada per un'iniziativa solidale, con obiettivo tricolore, con la voglia di dare un messaggio positivo, di speranza, sì, di rinascita, non solo allo sport ma all'Italia tutta. Io dico proprio anche lo spirito, racconto un episodio personale. La prima volta che ho incontrato fisicamente Alex Zanardi, era stato invitato ad un'associazione che è l'associazione dei calzaturieri della Riviera del Brenta, cioè era stato invitato un'associazione di produttori di scarpe, cioè solo quei pazzi dell'Acrib, amici miei, potevano invitarlo, e solo uno come Alex Zanardi può accettare con entusiasmo l'invito da produttori di scarpe, lui che le gambe non le ha più, e ovviamente ha steso la platea con la sua forza, con la sua capacità, come sempre, insomma, come con la sua grande ironia. Eh sì, lo spirito di Alex Zanardi. Giusy, ti faccio un'ultima domanda, è quella più delicata, io non so neanche come farla, ma si è molto sentito in questi giorni dire una frase, per esempio, della moglie: operatelo solo se potrà tornare come prima. Si parla di chissà come si risveglierà, chissà che Alex Zanardi troveremo. È un argomento sempre molto delicato, perché si entra in dinamiche molto personali, intime. Hai un pensiero? Io posso dirti che la mia, io credo che in questo momento serva solo grande rispetto, e che se hai un po' di fede non puoi che pregare. Adesso noi dobbiamo solo stringerci, anche unirci a questa grande moglie, che poi ricordiamo un bel vulcano anche lei, tosta, sì, sempre molto attenta, presente con passione e grande discrezione, sempre accanto a lui, a un passo dietro di lui, fondamentale presenza, che sta vivendo questa tragica come dire, situazione spaventosa per la seconda volta. La gente ha bisogno di riempire, no, i vuoti di informazione con un po' di fantasia delle volte. Io dico che noi dobbiamo pregare perché si svegli e che si svegli bene, ma soprattutto dobbiamo pregare che ce la faccia e che si svegli. Lui ha una grande tempra, poi sai, le conseguenze cerebrali, diciamocelo chiaramente, nessuno le può prevedere, neanche i medici stessi. Chiaro, io dico solo Dio sa, quindi è inutile fare come dire previsioni. Ma certo, insomma, giustamente la gente vuole sapere, ma in questo caso bisogna solo aspettare, insomma, e capire e sperare. C'è sempre sperare. Quella necessità, forse fa parte delle fragilità umane, quella necessità di trovare a tutti i costi una scusa, un alibi, un colpevole, un motivo. A volte non c'è, o se c'è forse non c'è dato saperlo, quindi dobbiamo anche essere forti, pazienti e anche generosi, esattamente un po' come lui ci insegna. Io per dirla alla sua maniera, se mi posso permettere, con ironia, sì, visto che lui è un ironico e ci accomuna, anche se vogliamo un po' questo aspetto, io dico che in questo ultimo periodo da un bel da fare sui angeli custodi. Assolutamente sì. Io ringrazio Giusy Versace, la rilascio alla commissione atleta paralimpica, fondatrice di Onlus Disabili No Limits, deputata di Forza Italia. Grazie per essere stata qui, per stringersi tutti attorno ad Alex Zanardi. Il premio Giachetti l'avevo annunciato, devo rimanere nell'ambito dello sport e forse già avete capito. L'hanno già soprannominato, oh ragazzi, premessa, è un fenomeno sul campo, Djokovic, Djokovic, altro che Djokovic. E vabbè, si sa, Djokovic, io sono rimasto stupito nel leggere non tanto la vicenda del sono positivo, lui che sta organizzando ha organizzato questo tour tennistico con tutti stretti, tutti vicini e adesso praticamente tutti positivi al coronavirus. Lo ha fatto per dare un rilancio, per il bene, per dare un segnale di solidarietà, per raccogliere fondi, quindi l'iniziativa è straordinariamente positiva nell'animo. Certo, è partita malissimo e adesso tutti malati. Quello che mi ha stupito non è tanto questo, è quello che ho letto circa un mese fa, sempre riguardante il grandissimo Djokovic, cioè che è un Novax, che si affida a dei guru strani che pensano che l'acqua abbia delle molecole che reagiscono alle nostre emozioni. Pare che sia uno che segua la dieta gluten free, senza glutine, ma non perché sia celiaco, ma perché il glutine è il diavolo, è il male assoluto. Non lo so, segue dei guru che abbracciano gli alberi. Come dire, che dobbiamo fare? Viva Djokovic sul campo, qui come ha scritto Andrea Scanzi ha perso 6-0 6-0 e si becca lui e tutti gli organizzatori con lui il premione Giachetti, che torna alla grande. Avete la faccia come il culo. Anche se adesso dovremmo forse introdurre un nuovo premio insieme al premio Giachetti. È il premio De Luca, signori. Potremmo mettere il premio De Luca. Vai! Ha la faccia come il suo fondo schiena, peraltro usurato. Ecco, De Luca, devo dire, non la usava, non l'ha usata nell'occasione per né per Djokovic né per altri, ma l'ha usata per Salvini. Devo dire che questa cosa, peraltro usurato, giustamente qualcuno ha fatto notare, è veramente volgare di De Luca, cioè va bene giocare alla faccia come il, ma peraltro usurato, e dai. Però signori, viva Djokovic e il suo tennis, lunga vita al grande campione, e qui davvero ha dimostrato che le teorie paraguru da paraguru sono un po' esagerate. Io però adesso vorrei andare, perché mi ha colpito la notizia che ho trovato sulla Verità, che attenziona sempre il soggetto in questione, è un prete, è Don Massimo Biancalani, torniamo con lui, parrocchia di Vico Faro Pistoia. Don Massimo, l'abbiamo buongiorno. Svegliata? Buongiorno, come sta? Buongiorno, va bene. Ma che è successo che hanno beccato un nigeriano, uno dei tanti che lei accoglie, dei tanti migranti, dei tanti esseri umani che lei accoglie nella parrocchia, ma che nascondeva l'eroina nel confessionale della sua parrocchia? No. Il fatto è che noi denunciamo che è proprio stata una notizia distorta, ragazzo, sì. È stato fermato con le piccole dosi di eroina, si tratta di una bassissima manovalanza e il ragazzo praticamente ha commesso un grave errore, ma no, nel confessionale, nel periodo del lockdown, la chiesa non era aperta, quindi lui ha utilizzato il confessionale per appoggiarsi alla sua vestiti, è un ragazzo comunque che voi ospitate ed è stato beccato con delle dosi di eroina. No, allora, sì, cioè non ce l'aveva nel confessionale, però. Il confessionale è semplicemente questo, è l'effort della polizia, la quale non abbiamo collaborato, perché nel momento in cui la polizia ci ha contattato, noi subito siamo andati a verificare questa cosa. Il confessionale semplicemente è l'appoggiato delle sue cose, i suoi vestiti, le sue cianfrusaglie, quindi non assolutamente presenza di eroina. E per questo noi abbiamo deciso di querelare Salvini per il posto che ci ha fatto ieri, quando sembra che noi che il confessionale sia il luogo in cui lui nascondeva queste cose. Vabbè, diciamo, non, facciamo una cosa, Don Massimo, non nascondevano in confessionale, però diciamo era un ragazzo che voi ospitate nella parrocchia, a cui lei ha aperto la chiesa. Ma non, i ragazzi non ospitiamo, scusate, tantissimo. Noi abbiamo circa 200 persone lo sanno che sul territorio italiano ci sono circa 500.000, forse 600.000 persone che gravitano, sono fuoriuscite dai circuiti di accoglienza e gravitano sul territorio. Noi su Prato, Pista Firenze, siamo un po' un punto di riferimento. Ma voi li controllate? Cioè lei li controlla? Cioè, dirà, ragazzi, fate i bravi, non spacciate. Però non si immagina che noi diciamo, ragazzi, questa è la via preferenziale. No, chiaramente. Noi abbiamo fatto un lavoro anche in questa direzione di formazione, di attenzione, chiaro, però purtroppo. E quindi questo ragazzo, lei cosa direbbe adesso, cioè se lo trovasse di fronte? Cosa gli direbbe? Caro ragazzo mio. Bello scapaccione. Lo scapaccione. Chiaramente, però, allora, ragazzo, non sappiamo che è arrestato e quindi è giusto che sconti la pena per questo errore grave che ha fatto. E nel caso poi lei lo riaccoglierebbe? Lo riaccoglierebbe un domani? Allora, sì, no, noi siamo, il ragazzo noi lo conosciamo, un ragazzo di 25 anni, ha commesso ripeto un errore, noi siamo già in contatto in questo senso con l'avvocato. Sì. Il giudice riterrà che ci sia una condizione per una misura cautelativa, diciamo, degli arresti domiciliari, non valuteremo questa possibilità, certo. Perché quindi anche di riaprirgli le porte, cioè. Sì, una persona, speriamo. Ma a quante querele è arrivato con Salvini lei? A quante noi siete arrivati? Semplicemente alla seconda querela, anche se Salvini ci ha dedicato una decina di post, sempre in questo tono diffamatorio. Il problema è che questa persona, questo personaggio non si rende conto che noi stiamo, nel nostro piccolo, chiaramente, cercando di mettere un tappo a un problema che lui stesso sta creando, perché i decreti di sicurezza cosiddetti hanno l'effetto, sortiscono l'effetto di spingere questa umanità fuori dai centri d'accoglienza. E quindi non avendo, sono anche ragazzi spesso molto giovani, non avendo un punto di appoggio finiscono a pregravitare. Finiscono a spacciare. Cioè lei sta dicendo che Salvini con le sue politiche spinge alcuni a spacciare come ultima razza. No, li spinge fuori dai circuiti della legalità e a rischio. E alcuni di loro purtroppo finiscono in mano, questo non è che lo dico io, ma nelle varie parti d'Italia in mano a situazioni poco raccomandabili. Va bene. Questa è la situazione oggettiva. Noi con la nostra accoglienza, ripeto, del tutto gratuita, perché noi non riceviamo mi piace sottolinearlo, cerchiamo di dare una piccola risposta ad una parte di questi ragazzi migranti che gravitano sulla zona di Prato perché in ricerca del lavoro nel comparto tessile del pronto moda Frasese Fiorentino. Sì, ma diciamo che la sua storia l'abbiamo raccontata varie volte. Qualche tensione con la curia c'è anche stata, magari anche stavolta la chiameranno a dire e Don Massimo adesso anche uno che hanno beccato con le dosi di eroina, come la mettiamo? Praticamente la Chiesa sa benissimo che è un'umanità fragile, noi non siamo conniventi, questo è fondamentale. Quello ci mancherebbe, nessuno pensa che lei sia il grande spacciatore e loro siano i suoi pusher, nessuno questo lo pensa. La Chiesa sa benissimo che l'umanità che siamo chiamati a soccorrere è anche un'umanità peccatrice, quindi siamo noi anche in questa situazione primi a dover dare una testimonianza di speranza. Va bene, insomma, questo ragazzo ha sbagliato, ha peccato come direbbe lei, pronti a riaccoglierlo. È un peccato se il ragazzo, ma non è la prima volta, noi abbiamo avuto già 3-4 situazioni di ragazzi, abbiamo accolto agli arresti domiciliari e sono anche percorsi importanti di ripensamento della loro vita, dopo questi tre casi. positivi, insomma, hanno cambiato. Alla fine, come la storia dell'Italia il giorno della marmotta, quello che rimane nel già visto è la querela Salvini, insomma, che è un po' la battaglia anche personale e politica che portate avanti. Lo sistema è spesso ci dedica, lui vorrà che adesso la signora Ceccardi ha scritto cose ben più gravi a proposito del servizio di Salvini, che lei chiaramente si prenderà una querela. Anche lei, anche ricordiamo che è candidata della Lega alla regione Toscana. Se poi diventerà la sua governatrice sarà difficile avere a che fare. Avremo un modo di incontrarci, la ricamerò le sue responsabilità. Io nel mio piccolo, come prete, cerco di fare quello che è il mio dovere di cristiano, di prete, di comunità cristiana, quindi cerchiamo di dare una risposta con tutte le nostre insufficienze a questa umanità che ci chiede un aiuto. Poi purtroppo non accogliamo ragazzi che vengono a fare l'Erasmus da Oxford, sono ragazzi che vengono dall'Africa e che sono strapiantati da un ambiente, vengono abbandonati dal sistema d'accoglienza e quindi si creano questi corti sciupiti, ma questo è una storia che conosciamo. Purtroppo il sistema d'accoglienza in Italia fa acqua da tutte le parti. Don Massimo, grazie per essere stato con noi. Noi intanto la chiamiamo Don Massimo Biancalani, prete a parrocchia di Vico Faro, Pistoia. Insomma, avete sentito, non accogliamo gente che viene a fare l'Erasmus a Oxford, ma persone fragili. La notizia oggi sui giornali è questo, che uno dei nigeriani che è ospite della parrocchia di Don Biancalani è stato pizzicato con 3 dosi di eroina. Però Don Massimo dice siamo pronti a riaccoglierlo se verranno dati domiciliari e comunque se si vorrà ravvedere. Dai, andiamo un attimo alla pubblicità e poi è in arrivo chissà se silenzioso, chissà se rumoroso, chissà se livoroso come ieri nei miei confronti, il buon Leonardo Manera. 1, nessuno, 100 Milan. A far sentire il De Luca che non ha nessun argomento, è solo capace di offendere il De Luca, hai capito? Ecco, l'hanno votato 4 campani, 4, e cosa vuoi? Così dai. Vabbè, comunque Djokovic è uguale, insomma. Sono sempre palle, palle sono palle, palle da tennis, ma sono sempre palle. Milan, sfotti pure il tennista, sfottilo, vedi come sei ridotto tu alla tua età. Avete sempre assegnato il premio Giachetti con obiettività, quindi per confermare questo dovreste assegnarlo anche a Milan per quando ci invitava ad abbracciare i cinesi. Ah, ancora questa cosa. Niente, non ce la togliamo più, uno la può spiegare un milione di volte. Allora, intanto eccolo qua, l'uomo che ha appeso al collo la celebre medaglietta, ve la ricordate? Meno di ieri, più di domani. Solo che lui non si riferisce all'amore, ma all'odio nei miei confronti, al livore, al rancore, sto facendo una cosa, al disprezzo. Cosa stai facendo? Stai scartavetrando? Potremmo fare il gioco che rumore è quello di Manera. Sapete che c'erano quei giochi con qual è l'oggetto? Che rumore è? Secondo voi che cos'è, cari ascoltatori? Fallo sentire bene. Sta scartavetrando, dai. No, non sto scartavetrando, sto passando la paglietta in una padella. Ah, perché... ma così la padella è da buttare tra un attimo. Sì, ma perché ieri sera mi sono cucinato. Allora, ieri sera volevo farmi della pasta col pesto di pistacchio. Poi all'ultimo momento ho cambiato idea. Il pesto di pistacchio è scaduto da 10 giorni. Basta. No. Poi all'ultimo momento ho cambiato idea, mi sono fatto una fetta di carne, solo che mi sono distratto e la carne è bruciata dentro la padella. L'ho mangiata lo stesso la carne, però è rimasta tutta attaccata. E adesso sto un po', ecco, con la paglietta sto passando per cercare di... il problema è che essendo una padella antiaderente, poi con la paglietta tolgo anche lo strato antiaderente. Infatti te l'ho detto, è da buttare, è tutta da buttare. E vabbè, Vabbè. Comunque, se non ti dispiace, passerei tutta la mattina così con questo rumore. Prego, prego, tu vai avanti. Adesso io saluto un ospite ed è bello introdurlo con questo. Prego. Bene. Bene, allora, no, in realtà il tema è anche molto delicato e torna con noi, io lo ringrazio. Ieri è riemersa la vicenda sui giornali e sui siti di Pamela Mastropietro, ricordate la ragazza che è stata brutalmente assassinata, per la quale ci sono delle persone a processo. Non sono invece a processo in questa vicenda molto, molto complicata altre due persone che potevano entrare in questo processo, e ci spiega tutto l'avvocato Marco Valerio Verni, che è anche lo zio e parente di Pamela Mastropietro. Buongiorno avvocato, grazie di essere qui. Buongiorno a lei e ai suoi ascoltatori, è un piacere per me essere di nuovo. Allora, c'erano due soggetti che hanno incrociato in questi sventurati giorni in cui Pamela poi è stata uccisa brutalmente, la ragazza. Queste due persone chi sono e perché non sono processabili? Dunque, queste persone sono le due che Pamela incontrò il giorno del suo allontanamento dalla comunità terapeutica a doppia diagnosi. A un certo momento del processo principale, quello riguardante Innocent Osegale, i loro nominativi vennero iscritti nel registro delle notizie degli indagati con l'accusa di violenza sessuale. Perché si approfittarono, diciamo, della situazione di difficoltà in cui stava Pamela? Perché secondo la nostra ipotesi loro ebbero ad approfittarsi delle minorate condizioni psichiche di Pamela, dovute principalmente alla gravissima patologia psichiatrica da cui era affetta. La cosa incredibile è che queste persone non possono essere processate perché c'è il difetto di querela, cioè la ragazza, che però non è più con noi, avrebbe dovuto denunciarle. Sì, così ha statuito il giudice nell'ordinanza di archiviazione. Effettivamente eravamo preparati a questo, perché pur nella drammaticità del dolore rimaniamo comunque lucidi e consapevoli dei limiti procedurali che possono comunque sussistere in certe situazioni. Certo, ci aspettavamo che magari la questione potesse essere affrontata sotto altri aspetti e quindi fosse procedibile d'ufficio. Pamela aveva un amministratore di sostegno? Allora, il punto è questo, tornando alla vicenda in senso strettamente tecnico e attenendoci al provvedimento di archiviazione, il giudice ha applicato il principio secondo cui il diritto di querela nei casi di violenza sessuale, in particolar modo, spetta unicamente alla persona offesa. Questa querela non sarebbe potuta essere presentata né dall'amministratore di sostegno né da un eventuale curatore speciale nominato dal tribunale su richiesta dell'amministratore di sostegno né da qualsiasi altra persona. Però sappiamo tutti che Pamela, purtroppo, il giorno dopo che ebbe ad incontrare questi due, invece andò incontro al suo tragico e demoniaco destino, e quindi pur volendo non avrebbe mai avuto la possibilità di porgere querela. Certo. È un paradosso che dal punto di vista giuridico lei anche dice si regge, purtroppo, cioè ci sono gli estremi per il giudice per decidere così. Onestamente non diamo la colpa al magistrato che sotto questo aspetto. Perché è un principio di diritto. Diamo la colpa a chi magari in sede legislativa non ha previsto un caso simile, che certamente è un caso raro, perché quante volte può accadere che una persona magari oggi venga abusata e domani muoia per altre cause, non potendo quindi sporgere querela? È certamente un caso raro. Speriamo che, facendo tesoro purtroppo di questa tragica vicenda, adesso la politica si fermi a riflettere e soprattutto con urgenza colmi questo vuoto normativo, affinché qualora dovesse riaccadere un domani, speriamo di no, ma non viviamo in un mondo utopistico idealistico, a un'altra famiglia non venga negata la possibilità di accedere alla giustizia, così come è stato negato a noi. Guardi, mi permetta di aggiungere una cosa: noi non cerchiamo il giustizialismo, cerchiamo giustizia, è una cosa diversa, ossia avremmo voluto avere la possibilità di accedere al processo dove poter stabilire in quella sede se Pamela quel giorno sia stata abusata oppure no. Non vogliamo gettare giudizi morali o a prioristici, però rispettando quelli che sono i principi sacrosanti di uno Stato di diritto, noi avremmo voluto questo. Questo ci è stato negato. Certamente, ricordiamo, guardi, no, ricordiamo invece che per la vicenda principale, cioè poi l'omicidio, c'è stata la condanna in primo grado all'ergastolo per Innocente Oscigale. Ma voi avete capito esattamente il movente? Cioè, perché ricordiamo che poi è stata anche fatta a pezzi, insomma è stata una vicenda terribile. Che cosa ha spinto questa persona a comportarsi così? Ma guardi, da come ha motivato la Corte d'Assise nella sentenza di condanna che l'epoca fa ha ricordato, si è trattato di un susseguirsi di eventi molto rapido in cui Oscigale avrebbe abusato sessualmente di Pamela, Pamela avrebbe cercato di ribellarsi, di reagire, e quindi poi da lì tutto il resto. Anche lì ribadisco, Oscigale ebbe ad approfittarsi di Pamela anche approfittandosi del suo stato di minorata difesa dovuta alla sua condizione psichiatrica, oltre che poi dovuta all'assunzione di eroina avvenuta in quel momento. Sull'assunzione di eroina rimangono i nostri dubbi, perché risulta che sia stata assunta tramite endovena, tramite un'iniezione. Ora Pamela non aveva mai fatto uso di siringhe, c'è un segno di costrizione sul braccio, quasi come se fosse stata costretta a iniettarsi quella dose, o se qualcuno, o come se qualcuno gliel'avesse introdotta a forza, o magari come se qualcuno abbia provato a dissimulare un qualcosa. Però, ripeto, c'è una sentenza, la dobbiamo rispettare. Secondo noi Oscigale non era da solo, nonostante l'avviso contrario dei fatti, noi continueremo a cercare un'altra parte di verità che ad oggi manca, e d'altronde, guardi, credo che vada contro il buonsenso comune il fatto che ad oggi di tutta questa vicenda, dall'allontanamento dalla comunità terapeutica dove era ricoverata, all'incontro con le due persone del giorno prima, ai tragici fatti del 30 gennaio, l'unico ad aver pagato sia appunto Innocente Oscigale. Credo che questo vada proprio contro ogni logica e contro ogni buonsenso. Allora, noi intanto, Leo, prego. No, dicevo che è il grande problema del diritto, che in teoria dovrebbe utopisticamente coprire ogni situazione generale, astratta, non dovrebbe avere vuoti normativi, e invece si trova a dover inseguire la realtà non prevista dal legislatore. Concordo con lei, ripeto, rimaniamo oggettivi e lucidi. Ribadisco quello che ho detto prima. È raro, veramente raro, fortunatamente, intendiamoci, che una persona un giorno venga abusata e poi il giorno successivo muoia per altre cause. È successo, è accaduto a Pamela. Purtroppo a Pamela è stata negata, e ai suoi familiari è stata negata, la possibilità di capire come siano andati effettivamente i fatti quel giorno. Ecco, non possiamo che rimanere positivi e costruttivi. E facciamo sì che non accada ad altri, quindi, certo, veramente che sia un precedente utile per altri. Ecco, attraverso la vostra prestigiosa trasmissione vogliamo lanciare ancora una volta un appello a tutte le forze politiche affinché si colmi questo vuoto legislativo in una tematica molto, su cui c'è molta sensibilità, perché vorrei ricordare che ad esempio sulla violenza di genere si è tornato, certo, a parlare con il codice rosso, che è dell'anno scorso, dove si è portato addirittura il termine di 6 mesi per sporgere querela, si è raddoppiato a 12 mesi, proprio a sottolineare la particolarità di questo reato, e quindi il fatto di voler dare alla persona offesa ancora più tempo per valutare la possibilità di sporgere una denuncia, una querela per il reato subito, proprio per la delicatezza della questione. Ma è chiaro così. Io raccolgo l'appello da fare al legislatore, in questo caso, di cambiare appunto la possibilità che nel caso di una violenza e poi succede un altro episodio, come nel caso di Pamela, che porta alla sua morte, però questa violenza, questa denuncia per violenza può essere e deve essere portata avanti anche e presentata da, che ne so, un parente, se ci sono gli elementi per dimostrare che violenza ci sia stata. Noi la ringraziamo, Marco Valerio Verni, ripeto, è lo zio di Pamela, ma è anche l'avvocato, quindi ha anche questa doppia veste da legale e da parente che questa vicenda la vive sulla propria pelle. Andiamo a sentire il traffico. Promo 24. Devi gestire il personale in smart working? Hai bisogno di software innovativi per automatizzare i processi aziendali? Gruppo Centropaghe, leader nei software e nei servizi per la gestione del personale e nell'innovazione tecnologica per il tuo business. Da sempre, al fianco di professionisti e aziende. Il partner giusto per la tua realtà, grazie a una suite completa di applicativi in service che rispondono e si adattano alle più svariate esigenze del mercato HR. Una procedura paghe nativa web di ultima generazione e app dedicate alle aziende e ai singoli dipendenti. Scopri la soluzione giusta per te. Centropaghe.it. Gruppo Centropaghe, un unico partner, mille risorse. 1, nessuno, 100 Milan. Buongiorno. Se c'è un prete che fa quello che la Chiesa ha sempre detto di fare, cioè accogliere gli ultimi, viene attaccato dalla Chiesa stessa. Che controsenso, eh? Spettacolare che il nigeriano spaccia per colpa dei decreti di Salvini. Infatti prima del 2018 non si sentiva nessun migrante che spacciava. Manera, un consiglio da un cuoco dilettante: allora prendi la padella, la metti, sì, ci metti un po' di acqua, la fai scaldare sul fuoco 2 minuti, quando è bella calda si stacca con molta facilità, ecco, tutta la porcheria. Devo che dire, hai fatto. La porcheria che hai fatto mi sembra giusto. Dite a Manera di scaldare la padella anche con un fondo di olio e grattare, sì, con un cucchiaio di legno. Lui invece preferisce usare la paglietta, buttare la padella, comunque, tanto è ricco, sfondato, ma che gli frega lui, e ribruciare la prossima volta tutto. Comunque devo invitare a cena qualcuno, perché mi è rimasta una fetta di carne secca, quindi se qualcuno volesse venire a cena. Dici qualcosa che poi c'è il giornale radio. Allora, questi giorni si parla molto di voucher come forma di rimborso per i concerti che non si sono potuti fare, voucher per voli aerei che non vedranno mai il cielo e così via. Praticamente, invece di rimborsare economicamente chi ha speso del denaro per un servizio che non è mai stato reso, lo sostituisce con un altro servizio analogo forse, ma non identico. Il sistema in effetti è discutibile. Pensate se questo sistema venisse adottato nella vita di tutti noi. Ad esempio, abbiamo bisogno di un imbianchino per ritinteggiare il muro, ma all'ultimo minuto l'imbianchino si accorge di non poter venire. Non c'è problema. L'imbianchino ci dà un voucher e ci vediamo arrivare a casa un elettricista che dà un'occhiata all'impianto elettrico. Come reagiremmo? Dipende da com'è l'elettricista, penseranno le amiche all'ascolto, però il problema resta. Oppure paghiamo in anticipo il macellaio perché vogliamo che ci tenga da parte una bella fiorentina, ma poi all'ultimo momento il macellaio si accorge che fiorentine non ne ha più e ci dà un voucher per riempirci la casa di hamburger vegani. Meglio non esagerare con la carne, direte voi. Sì, ma io volevo una fiorentina, non la quinoa. Il discorso si farebbe ancora più interessante per i rapporti umani. Punti tutto su un'amicizia, poi l'amicizia per un qualsiasi motivo non va a buon fine e allora ricevi un voucher per un'altra amicizia. Con i tuoi parenti non ti trovi bene e allora ricevi un voucher per un altro papà, un'altra mamma, tutta nuova con la quale ricominciare. Ma non funziona così, né per gli oggetti, né per i servizi, né per le persone con gradazioni diverse ovviamente, ma la scelta di un servizio, di un oggetto, di frequentare una persona non può prescindere dai nostri desideri, dalle necessità, da quello che siamo e sentiamo. Se io desidero vedere un concerto di Paul McCartney, ci tengo non solo perché amo quel tipo di musica, ma perché probabilmente sono legato anche a qualche episodio, a un momento che mi riporta a quella musica. E magari andare a vedere, che so, Eric Clapton non mi soddisfa allo stesso modo, anche se il livello resta alto. Se io voglio andare in vacanza a Zanzibar e poi mi ritrovo, per dire, in Malesia, non è la stessa cosa, anche se probabilmente è un bel viaggio lo stesso. Ma paradossalmente, anche se voglio andare in vacanza a Amazone e poi invece mi ritrovo un voucher per andare alle Maldive, io ci tenevo ad andare a Amazone perché in questi anni mi ci sono affezionato. Ci sono sempre di mezzo le emozioni. Se Eva fosse stata del tutto razionale, non avrebbe mangiato la mela, lo sapeva che non la doveva mangiare. E se il serpente al posto della mela le avesse dato un voucher per mangiare un kiwi, io credo che Eva non sarebbe stata contenta e prima o poi avrebbe cercato ancora di assaggiare la mela. In questo senso il rimborso economico dà più soddisfazione della sostituzione col voucher. Perché col denaro in mano hai ancora tutte le tue emozioni al posto giusto e puoi illuderti di riviverle. Con la sostituzione di quello che avevi scelto, quella parte delle tue emozioni non c'è più. Quelle emozioni svaniscono, sostituite da qualcos'altro. Non esiste nella vita un voucher emozionale equivalente. Non esiste nemmeno per gli oggetti che si scelgono, qualche volta nemmeno per i servizi. Esistiamo noi con le nostre vite, con la nostra storia, con le nostre scelte. Scelte di preferire un concerto di Paolo Conte magari a uno di Paul McCartney, di preferire magari una trattoria a un ristorante stellato, di preferire perfino Masone alle Maldive, che tanto lo sai che a Masone, subito dopo la galleria, dopo il ponte, cambia il mondo e torna il sole. Masone o Maldive? Vi lasciamo con questo dubbio al giornale radio. M o M, Masone o Maldive? Vedremo nella seconda ora. Il segnale orario vi è offerto da Logica, spazio, tempo, Modul Block, l'evoluzione del magazzino. 1, nessuno, 100 Milan. Siamo qui, signori, 10:07 da seconda ora di Uno Nessuno 100 Milan. Allora, sentiamo cosa ha detto il professor Galli, il professor Galli di Milano. Sentite un po'. Nel momento in cui la scelta è stata quella di riaprire, si deve consapevolmente avere cognizione del fatto che il problema si può riproporre. Il virus non si è affatto rabbonito, eccolo qua che sta facendo quello che sta facendo giusto in Germania. Le capacità di diffusione sono certamente molto maggiori se si riapre un focolaio. Capito? In Germania. Il problema è che ognuno poi dice la sua, anche dagli scienziati, dagli esperti, ne abbiamo parlato più volte, no? Abbiamo parlato varie volte, però è vero che guarda che quello che sta succedendo in Germania è abbastanza, a parte quello che è successo con Djokovic, soprannominato Djokovid, il tennista, ma in realtà leggevo su Repubblica la straordinaria storia di Clemens Tönnies. Sai chi è Clemens Tönnies? È un giocatore di tennis, immagino. No, è il proprietario del mattatoio che in cui è scoppiato tutto il caso in Germania, è anche patron di una squadra di calcio. Sai la cosa che mi ha colpito di questo profilo che Tonia Mastrobuoni ha fatto su Repubblica? Che da piccolo, da giovane, questo Clemens Tönnies pare volesse fare il tecnico della radio. Voleva diventare il nostro alpino, il nostro Peter Bescapè. Mm-hmm. Il tecnico ha detto: papà, voglio fare il tecnico. Sai il papà cosa ha fatto? Gli ha dato due schiaffoni bene assestati e gli ha detto: ma vai a lavorare. Ed è diventato così Clemens Tönnies, un uomo da un patrimonio da 1,4 miliardi di non si sa se euro, dollari, credo euro ovviamente, se no. Ma, ma io dico una cosa: voglio fare il tecnico della radio. Pam! Smettila, bello, vai a lavorare. Esatto. Come diceva mia madre a me quando io dicevo volevo fare spettacoli, lei mi diceva: ma pensa a studiare, vai avanti a studiare. Solo che tu sei diventato ricco comunque. sì, certo. Anche con gli spettacoli. Perché ho perseguito, sì, la mia passione. Ma no, dicevo, sarà pur vero che il virus c'è ancora, che è dannoso quanto prima, è aggressivo come prima, però pare anche che adesso ci siano un po' di strumenti in più per curarlo. Quindi sì, la scelta è sempre quella, no? Se rimanere chiusi per sempre fino a quando questo virus non ci sarà più, oppure se provare a conviverci, a curarlo, altrimenti... Chiediamo tutto ad Andrea Daddio. Certo, sentiamo Andrea Daddio, direttore di Berlino Magazine, che torna con noi. Andrea, buongiorno e grazie di essere qui. Buongiorno a tutti. Allora, ma è vera questa storia? La sapevi questa di Clemens Tönnies che voleva lavorare in radio? Sai, per noi è... l'ho trovata gustosa come storia, anche se marginale, in quello che sta succedendo. Da giovane voleva lavorare in radio, vai a lavorare, gli hanno detto, giustamente. No, non la conoscevo, però magari non lo so, forse avrebbe fatto meno danni, visto che adesso al suo stabilimento il presidente della provincia, per semplificare, ha detto non nessuna fiducia nella Tönnies. Ah, attenzione, non nessuna fiducia. Ma com'è possibile 1500 lavoratori infettati, chissà la popolazione, ovviamente poi questi hanno famiglia, cioè non ha preso precauzioni? Ah, questo io adesso non mi posso permettere di dirlo. Diciamo che sembra chiaro che nei macelli sia facile la propagazione del virus, perché non è il primo caso in Germania, penso siamo al settimo, ottavo caso addirittura di focolai nei macelli, e questo sottolinea probabilmente, c'è una grande probabilità che in quei contesti a temperature vicine ai 12-13 gradi il virus viaggia più velocemente. Poi che non ci siano precauzioni o quelle che noi pensiamo siano giuste è probabile, però è difficile dirlo senza che ci sia un'indagine che lo certifichi. Sì, il dato di fatto è che un focolaio è scoppiato e non è la prima volta, come ci dici tu, quindi temperature più basse, probabilmente anche vicinanza, è difficile mantenere forse ambienti molto ampi e distanze sociali e lavorative in questo caso molto ampie, no, nei macelli. Guarda, mi sembra che sia stato diffuso l'altro ieri un video di come funziona la mensa nello stabilimento adesso interessato dal focolaio, e a mensa, anche se con tute che utilizzavano già da prima della pandemia, stiano tutti attaccati. Quindi sì, sicuramente c'è una propagazione facilitata dalle temperature, dall'altra c'è il fatto che comunque gli spazi siano condivisi. E in verità questa è una grande contraddizione. Adesso io, il mio punto di vista è tedesco, e vedo in tante regole tante contraddizioni, da attaccati in metropolitana e poi si deve stare magari un metro e mezzo di distanza in tanti altri contesti. Dall'altra è pure difficile giudicare, perché è veramente una situazione che nessuno immaginava, e tenere la distanza sempre è quasi impossibile. Però siamo un po' stupiti, non so Leonardo cosa ne pensi, abbiamo sempre pensato in Germania basta dire comportatevi secondo certe regole e le persone più o meno si adeguano nella stragrande maggioranza, evidentemente non è così, cioè dobbiamo anche un po' smitizzare forse questo mito della Germania dove tutti sono ligi alle regole? Beh, secondo tutti, me magari no. Scusate, prego. No, e qua in verità c'è un discorso, è giusto e sbagliato allo stesso tempo, perché la maggior parte delle persone che si sono ammalate, hanno preso il Covid, sono persone straniere, e questo è perché buona parte dei lavoratori di questi grossi impianti industriali sono persone da soprattutto da paesi dell'est, Polonia, Bulgaria e tante altre nazionalità, non solo paesi dell'est, che vengono assunti da agenzie interinali che li manda degli impianti a lavorare a condizioni probabilmente non dignitose, e non solo, li manda a vivere in case affittate dalle stesse agenzie interinali in cui stanno tutti assieme, e sì, non è possibile rispettare le distanze, quindi chi non rispetta la distanza in questo caso almeno sono stati tanti stranieri, ma costretti da una logica del profitto made in Germany, quindi... Da una parte possiamo dire che i tedeschi rispettano le regole, ma non le fanno rispettare. Questo infatti che non so, a te Leonardo stupì, ho questa immagine, no? Spesso si dice, certo un'immagine magari esagerata, facciamo come in Germania dove si dice una cosa tutti la rispettano, poi si scopre che ci sono lavoratori sfruttati in condizioni precarie di salute, di lavoro, di case, di paghe magari, alla fine tutto il mondo è paese, o no? O no? Questo è. Sì, però sarebbe interessante sapere però com'è l'approccio a questo punto, nel senso come ci si comporta rispetto a questi nuovi contagi. Un bel lockdown, se ho capito bene, per 600.000 tedeschi. Nella zona è stato fatto un lockdown che non si sa quando finirà, quindi si è ritrovata una fase di fine marzo, analoga a quella di fine marzo. E guardate che credo che questa sia la cosa effettivamente psicologicamente più insopportabile, cioè pensate se si dovesse arrivare anche per piccole zone a dire ok, si ritorna in casa. Io non lo so, Leonardo Manera, come lo ritrovo una volta che poi dopo riaprono la casa. Insomma, vado in Germania. Mummificato con una paglietta a pulire la pentola, non lo so. Cioè, Andrea, come vivono adesso questo ritorno al lockdown in quella parte di Germania? A livello psicologico questo adesso ancora non lo so, poi la restrizione delle misure è avvenuta ieri pomeriggio, quindi ancora non è difficile anche valutare, non anche i servizi di giornalisti che sono ritornati in quelle aree rivedono la situazione pregressa. È vero pure che in Germania lockdown simili a quelli italiani non ci sono mai stati, quindi comunque ci sarà sempre una piccola libertà, la possibilità magari di incontrare una persona non del proprio nucleo familiare. Adesso queste almeno erano le regole vigenti in quell'area della Germania, perché poi ogni regione qua fa a modo suo, e quindi un ritorno a quelle restrizioni non sarebbero comunque analoghe alle restrizioni che abbiamo visto in Italia. Certo è che adesso c'è un dibattito che è politico e anche sociale, che va al di là, diciamo, tutto politico, ma avviene anche tra persone comuni sull'effettivo utilizzo di impianti del genere per la produzione della carne, e questo adesso, diciamo, è il più grosso contraccolpo, diciamo la più grossa conseguenza, sì. Perché la Germania ha tantissima produzione di carne, è il più grande produttore di carne in Europa, e in una crisi generale economica questo andrebbe a inficiare anche i posti di lavoro. Questo sì. Allora, intanto noi, nel ringraziare Andrea Daddio, direttore di Berlino Magazine, facciamo così, andiamo al traffico, poi tutto ciò è pane per i denti di Carla Rocchi. Caro Leonardo, chissà come la nostra Carla reagirà, insomma, nel sapere questa notizia legata al mondo comunque di un certo tipo di alimentazione, ecco, l'alimentazione dei carnivori, quelli come te. Ricordo a Carla Rocchi, anzi glielo ricordiamo tra poco, che Leonardo Manera è tutto in fissa perché ieri ha bruciato una fettina di carne nella padella. Cosa mi sono distratto un attimo. Secondo Carla Rocchi è il giusto contrappasso per avere ucciso e mangiato un pezzo d'animale. Ma tra poco. Promo 24. Per una ripartenza nel segno della salute e della sicurezza, Schindler, società leader nel settore degli ascensori e scale mobili, presenta Schindler Hygienic, la gamma di soluzioni innovative per scale mobili e ascensori sempre igienizzati e virus free, dalla tecnologia a raggi UVC per la sanificazione profonda dei corrimani delle scale mobili e delle superfici interne degli ascensori, alla purificazione dell'aria in cabina, all'uso di speciali pellicole antibatteriche. Schindler ha pensato a tutto con un unico obiettivo: innovazione e tecnologia per ascensori e scale mobili sanificati e sicuri. Schindler Hygienic è l'ideale per uffici, hotel, supermercati e centri commerciali, ospedali, stazioni e aeroporti e non solo. Tutte le info su schindler-hygienic.it. 1, nessuno, 100 Milan. Vero Carla Rocchi, che è il giusto contrappasso per Manera, che è lì con l'olio di gomito a cercare di pulire una padella che dovrà buttare lui che ha usato la sua fettina di carne. L'hai detto tu, buongiorno caro, e io non buongiorno. Potrei essere più d'accordo di così. Eccoci. E se vogliamo passare dal faceto al serio per una volta. Sì. Sì. Facciamo una constatazione, facciamo i fatti separati dalle opinioni. Tutta questa ambaradan, come si dice a Roma, nasce sempre dove c'è un mercato, dove c'è la carne. Poi che la gente se la mangi o non se la mangi sono affari suoi. nasce a Wuhan, sì, nel mercato umido, e io questi mercati li ho visti e voi non potete immaginare di cosa parliamo. I wet market, certo, sì, certo, dove macellano tutti gli animali. Terra, escrementi, liquidi, la gente la gente ritiene che quando gli arriva la roba a casa tutta impacchettata, questa roba arrivi chissà da dove. Ci sono ormai documentari infiniti fatti da coraggiosissimi operatori che ci dicono che negli allevamenti nostri industriali succede la stessa cosa, semplicemente che non viene visto perché sono al chiuso. Non so chi diceva che se i macelli avessero le pareti di cristallo tutti sarebbero vegetariani, ma lasciamo stare le cose morali. Io ho visto questa intervista di questa lavoratrice nell'impianto di questo signore che ha uno sguardo inquietante, una profondità. Vabbè, dai, adesso, attenzione, è diventata l'ombrosiana Carla Rocchi. Ma questa signora dice cose disperata, dice cose: qui la carne è marcia, vi danno la carne avariata, vi danno tu, perché non è, adesso non è questione che il virus distingue tra marcia o non marcia, ma se una persona che lavora lì fa questa denuncia disperata, e guardate che nessuno sceglie di andare a lavorare in un macello, è proprio l'ultima delle opzioni, non si sceglie di andare a lavorare in un macello. Se la gente sia tenuta così, le condizioni che avete detto voi, che avete ricordato, significa che esistono delle zone franche, delle zone extra legge, perché questo è, perché in un posto dove la gente è tutta insieme, stipata, senza, per quello che dicono nelle interviste, senza misure di sicurezza, si infettano se stessi, infettano gli altri. Capito. Però questo, Carla, scusa, può capitare, cioè allora distinguiamo le due cose: i wet market, cioè quelli in Cina dove si macellano gli animali, e sono a rischio perché lì ci può essere il salto di specie da un animale che ha il virus a un uomo, però si parla di animali vivi, cioè i macello sono animali poi morti, cioè nel senso, come diceva qualcuno, prima di essere morto era vivo. Cioè dentro il macello riproduce, no, però se c'è l'affollamento di lavoratori nel macello a trattare la carne morta, è come se ci fosse l'affollamento in un'azienda metalmeccanica a fare una lamiera. Infatti l'hai detta giusta, perché in realtà sono sempre la somma delle condizioni che fanno l'effetto. Ma secondo voi in Lombardia perché noi abbiamo avuto questa tragedia? Perché ci sono state industrie che non hanno chiuso all'inizio, perché ormai questo è di dominio pubblico, e quindi il non aver chiuso ha determinato questa situazione, a tutti a catena hanno voluto lavorare in deroga, e il non aver chiuso ha determinato queste cose, ma il valore aggiunto o il disvalore aggiunto è la parte contaminata di tutto quello che attiene la carne e la lavorazione della carne. Poi, se le persone vogliono continuare così, non è che gli si può impedire, però ormai è una valutazione comune, e non possiamo continuare, se vogliamo avere una speranziella di futuro, a continuare così. Cioè, capito, Leonardo, la nostra Carla Rocchi dice che almeno questo ci aiuti per il futuro a cambiare. Però, visione del mondo. Ma la cosa invece inquietante, secondo me, che dice Carla Rocchi, è che questi macelli sono degli spazi dove di fatto la legge non viene osservata. Però voglio dire, la si faccia rispettare, appunto, dico questo che bisogna in maniera capire banale, cioè, ma anche perché in un macello è come in un'altra azienda qualsiasi deve essere fatta rispettare la legge. Ma come pensi che una persona che si trova nel più sgradito dei gradini della scala lavorativa, perché andare a lavorare in un macello, a meno che uno non sia un sadico, non è una scelta. Detto questo, questa persona ha la forza contrattuale di protestare contro il signor Pizzessini che abbiamo visto? Pensi che ci sia la possibilità? Noi per avere i documentari dei macelli abbiamo dovuto dire grazie a persone coraggiose che si sono introdotte in maniera proditoria, se vogliamo, nei macelli, perché non ti arriva una notizia. Ma sai che noi abbiamo fatto condannare Amadori per pubblicità fraudolenta? Ma perché l'abbiamo fatto? Perché siamo un'associazione con i controcavoli. Ci voglio vedere quello, il singolo cittadino che fa una cosa di questo genere. Capito che voglio dire? Ma perché ci sono questi luoghi franchi dove comunque non si riesce a far osservare la legge da parte delle istituzioni? Intendo la schiavitù, perché quando questa povera gente viene presa, messa insieme, fatta dormire insieme nei posti salta a lavorare insieme. Voglio vedere se questi avevano il sapone per lavarsi le mani, quanto ne avevano, quante mascherine avevano. Ma poi, se fosse stato tutto perfetto, noi non avremmo quello che è successo. Vabbè, ma se fosse così, cioè io non credo, Carlo, io non credo che sia un mondo in cui ci sono delle imprese che riducono in schiavitù delle persone. Ci sono delle sacche di illegalità e vanno perseguite, assolutamente, ma vanno colpite. Cioè, se questo non ha rispettato le regole, va sanzionato, va punito. Nessuno discute su questo. Perdonami, te l'ha detto l'ottimo inviato da Berlino. In questa situazione cosa sono? Lavoratori che vengono dall'estero, quindi dato per cominciare sono stranieri, certo. Secondo, arrivano con agenzie che curano tutto, pacchetto intero, arriva il lavoratore, viene messo nelle case affittate dall'agenzia, questi pagano i soldi all'agenzia per le case, cioè già il profilo ti dice che non abbiamo lì dentro delle persone con grande capacità di autodifesa, mettili tutti insieme, mettili a confronto con lo strapotere di un'industria e dimmi se questi disgraziati riescono a far valere. Va bene, quello che sostengo io è che questo succede anche per i cinesi nel tessile a Prato, dove ci sono delle situazioni e sono nel tessile, cioè non c'entra la carne, capisci? Vorrei uscire dal discorso della carne, no? No, te lo spiego, perché la carne è l'ultimo gradino. Cioè il tessile a Prato è una cosa che si sceglie, andare a lavorare nel mattatoio io non ho notizia di nessuno che abbia scelto di andarci, allora quindi sono i più deboli e i più disgraziati e si profitta di questa situazione, quindi è proprio, diciamo, io non ho delle particolari vocazioni a fare la morale a nessuno, però ti dico che esistono delle situazioni dove è l'etica la spiegazione di tutto, perché qui c'è una sopraffazione e una vigliaccheria e un'aggressione nei confronti degli altri che lega gli ultimi degli ultimi, le persone, ultime della scala sociale, gli animali, e una situazione che produce gli effetti che vediamo. Dopodiché torniamo di buon umore se non ci avviliamo. Ma perché invece la legge non riesce a far rispettare le norme in questi ambienti? Caro, ti voglio bene, ma perché da noi siamo stati capaci all'inizio della pandemia a far rispettare la norma di tenere chiuso? Siamo stati capaci. Vabbè, ma lì è stato, se vogliamo, è stato l'errore di capire che il virus che era in giro a dicembre ce ne siamo accorti ufficialmente ti voglio bene, ma secondo voi nel momento in cui le aziende hanno potuto tutte lavorare dichiarando con la richiesta di lavorare in deroga, cioè si faceva legittimamente la domanda alla prefettura dicendo sì, noi lavoriamo rispettandosi, spera le regole, chi non le rispettava deve essere sanzionato. Migliaia di domande, qualcuno ha potuto controllare perché la Lombardia rimane un focolaio acceso, perché c'è stato questo errore iniziale che i lombardi colpevoli pagano, poveretti, capito? Allora questo che la legge è un optional in qualche situazione. Guarda, Carla, non ti chiedo niente del Festival dei Cani in Cina, perché è una cosa talmente talmente per la quale tutti siamo d'accordo, è una cosa talmente orribile, però ti voglio chiedere questa storia dell'orso e quante volte tu hai detto hai mai avuto notizie di attacchi all'orso? Guarda, leggi oggi Repubblica e guardati le facce di Fabio Massironi e il figlio Cristian, che sono sopravvissuti a un attacco di un orso, sono vivi per miracolo, parole loro. Ma quale miracolo? Ma capito, mi dicevi, erano quasi spranati. Peccato però che stanno quello cammina con la stavaglia, va bene, auguri a lui, ci mancherebbe altro, ma questi due signori, vi ricordate il fungaiolo? Ve lo ricordate? Sì. Tanto fungaiolo che andava per funghi e per pratoline, e poi l'orso cattivo l'aveva... Io mi domando perché in un momento, tu mi dirai, tutti hanno diritto di andare dovunque, ma in un momento in cui la caccia è chiusa, per fortuna, questi due signori cacciatori a fare loro, è legittimo farlo, però questa cosa... Ma cacciatori, magari passeggiati, se fossero stati turisti invece... Lo sono, per loro dichiarazione. Allora, detto questo, io dico questo, cosa si vuole lì? L'orso non ha chiesto di andare lì. Se le persone in Trentino devono scegliere se avere l'orso e allora lasciarlo in pace e non provocarlo, se non vogliono avere l'orso lo rimandassero a casa sua, che quel poraccio ci stava tanto bene in Slovenia, l'orso originario, e non rompessero le scatole al mondo con questo. Però aspetta Carla, aspetta, perché ci ha chiamato l'ascoltatore Leonardo, mi dicono da Crema, mi dicono che lavori in un macello da tanti anni, è vero Leonardo? Forse vuole contro... No, è caduta la linea. Adesso lo recuperiamo. Vabbè, se vuoi, Carla, facciamo la borsa. Se vuoi stare con noi, recuperiamo nel caso Leonardo. Stai con noi, dai, che ridiscutiamo dell'orso. Ti richiamiamo tra 5 minuti dopo la borsa. Ti richiamiamo tra 5 minuti. Quando volete. Se puoi. Dopo. Fineco, la banca numero uno in Italia nel trading, vi presenta. 1 Nessuno 100 Milan. Guarda che nei macelli c'è sempre la presenza di un veterinario. Caro Milan, il virus, non mi risulta che il virus viva in un pezzo di ferro o all'interno di un pezzo d'alluminio di rame, vive nella materia organica e solo lì sopravvive, passa da cellula a cellula, quindi anche carne morta, come hai detto prima, può trasmettere. Allora, siamo qui, abbiamo recuperato il nostro ascoltatore insieme a Carla Rocchi, che è con Leonardo da Crema. Leonardo, buongiorno. La Cremona, buongiorno a voi. Cremona, va bene. Cremona, sì. Allora, la signora Carla Rocchi io la rispetto, per carità, però lei se dovesse venire a fare un giro nei macelli si rende conto, specialmente quelli italiani, siamo più controllati. Nel mio macello, ad esempio, dove lavoro io, ci sono 5-6 veterinari. Ogni viaggio si lava e si disinfetta il camion. Ecco, non diciamo che la roba va in terra, va buttata tutte balle. La no, gente sono i wet market cinesi dove le condizioni, a quello si riferisce. I wet market sono mercati all'aperto cinesi dove le condizioni sono terribili. La signora probabilmente andrà solo verdura, io lo rispetto fin per carità. Però visto che lei vede lo sfruttamento degli operai dai macelli, parliamo anche dello sfruttamento nelle campagne. È la stessa cosa, identica cosa. E comunque le dico che molta gente fa a gara per venire a lavorare nei mattatoi. La signora forse non lo sa, gli stipendi che hanno. È un lavoro massacrante, però vengono anche pagati. Sì. Va bene, ma Carla l'ascolta, tra l'altro detto che i virus non sopravvivono in organismi morti, quindi, sì, no, detto che dobbiamo dire che i virus non sopravvivono in organismi morti, come ci dice l'ascoltatore, quindi nelle carcasse degli animali, ecco, non è quello il problema, ma il salto di specie è una cosa diversa e i wet market, se uno sta a contatto con gli animali vivi che hanno il virus c'è il rischio. Però Carla, che dici? Cioè, perché Leonardo, come altri, ci ha mandato messaggi e sentito sono arrabbiati a dire che nei macelli non ci sono. Ma lui legittimamente difende la sua posizione, difende la sua scelta di vita. Io rispetto tutti, non serve di litigare tra noi. Il virus se ne frega del fatto che litighiamo tra noi. Sono le condizioni in cui si lavora che determinano il fatto che il virus ci possa aggredire. È una sciocchezza litigare tra noi. Certo che io non vado a fare la visita nei macelli. Mi basta quello che ho visto, le riprese che sono state fatte, non sarebbe mai una mia scelta. E se mangio la verdura le posso assicurare che mi fa solo che bene. Detto questo, resta il fatto che se non vengono rimosse le condizioni in cui il virus prospera e ci attacca, non c'è difesa che tenga. E fino adesso la statistica ci dice che il virus prospera e ci attacca laddove c'è materia vivente. Cioè però, a meno che non... capito che voglio dire così. No, ma è chiaro. Allora, nel ringraziare Leonardo, Leo, se hai da dire una cosa, però dicevo, ma allora la soluzione, secondo Carla, è chiudere i macelli in generale? No, la soluzione, guarda che le soluzioni semplici a problemi complessi non esistono, però c'è anche da dire che se noi non pensiamo a una soluzione complessiva di cambio anche graduale di abitudini, non andiamo da nessuna parte, questo è il punto, non si va da nessuna parte, siccome il problema è grosso, nessuno si sente di affrontarlo, nessuno si sente di dire limitiamo un consumo, però è vero e tutti lo condividiamo che se noi continuiamo così dobbiamo prepararci a nuove pandemie. Però se io seguo il tuo stesso ragionamento, dicevo limitiamo il consumo della carne, arriviamo addirittura al punto in cui la vietiamo e chiudiamo tutti i macelli, quelli che lavorano nei macelli dovranno lavorare in altre aziende, le condizioni di sicurezza devono esserci in tutte in tutti i settori della vita, ecco. Non c'è dubbio, ma tu considererai che le condizioni di sicurezza sono proporzionate alla situazione di rischio. Cioè, un conto è mettere in sicurezza una situazione poco rischiosa, un conto è mettere in sicurezza una situazione altamente rischiosa. E allora cominciamo col ridurre le situazioni in cui tutto questo può accadere. Ma comunque si deve necessariamente ingozzare tutta questa vabbè. Ma no, vabbè, e qui però vedi che entriamo in una considerazione, come dire, morale, cioè è la tua legittima battaglia, cioè la gente si deve ingozzare di tutta questa carne, e per me anche no. Economica non è morale, perché se tu fai salire la domanda di un chiamiamolo un bene, per me, insomma, di un qualche cosa, il salire della domanda determina l'accelerazione dell'offerta. Sì, bisogna ripensare alla nostra vita. Ma se la gente vuol mangiare la carne, come hai detto anche tu, cioè, infatti se la mangiasse, allora ci sono i vangelli. E tanti auguri, che ti devo dire? No, per dire, la notizia, visto che non esistono risposte semplici ai problemi complessi, notizia di 3 minuti fa, 28 migranti salvati in acque internazionali della nave Sea-Watch, 28, sono risultati positivi al coronavirus. Allora, visto che non ci sono soluzioni semplici, la soluzione semplice arriverà tra 7 minuti da qualche politico e dire, vedete, bloccare tutta l'immigrazione, perché... Cioè, è semplice trovare risposte semplici, ma i problemi sono complessi. Ma come nessuno da, diciamo, nessuna persona che abbia sale nella zucca dà risposte semplici, caro Alessandro. La risposta dei politici, perché i politici che cosa fanno? Guardano, come diceva qualcuno, alle prossime elezioni e non al futuro. Quindi adesso qualche anima bella che dirà, ecco, ripetiamo tutti a mare, la troviamo. Oh, ma ti devo dire su questo una cosa fantastica, se abbiamo un momento. Esiste una nave ancorata in rada a Palermo, credo, che è stata messa lì proprio per far fare la quarantena alle persone, ai migranti. Sì. Bene, c'è stato un politico, l'avete trasmesso voi stamattina, mi sono sbellicata, guardando la nave ha detto, vedete, il futuro è radioso, stanno arrivando le navi da crociera, il turismo. Crociera, era una nave, credo cancelleri. Nelle disgrazie più disgraziate c'è sempre qualcosa che ti fa. Leo. Comunque mi viene da dire a Carla che comunque negli anni la sensibilità sul consumo di carne è anche molto cambiata, quindi probabilmente le soluzioni sono anche diluite nel tempo, insomma sono cose per le quali ci vuole tanto tempo per cambiare, non succede da un giorno all'altro. Non c'è dubbio, ma nessuno pretende, non ci sono soluzioni. Ma guardate, in casa mia, quando io ero bambina, la carne era considerata un must. E mia madre ci incontrava con le migliori intenzioni. Adesso le persone fanno scelte e ragionano non soltanto in termini di salute loro, ma di visione complessiva. Io sono convinta che più cresce l'informazione, più si modificano positivamente i comportamenti. Le risposte trascianti non ci portano da nessuna parte. Io in tutto, torniamo all'orso per concludere. Torniamo all'orso. Ma guarda qua il racconto. Stavamo camminando sul monte Peller normalmente, e ci si è scagliato contro l'orso. Ma ho capito, ma sarà il padrone del bosco l'orso? No. Ma tu l'hai visto l'orso? Ma tu l'hai visto l'orso in passeggiata con il bambino e la mamma? Hai visto come si è comportato il bambino e l'orso non ti ha segnato di toccarlo? Perché il bambino ha avuto il sangue freddo di andarsene via lenti. Se uno non ha il sangue freddo, che deve fare? Deve essere sbranato. Ma io dico, quest'orso, noi dobbiamo partire da un principio. Gli orsi lì non c'erano. Esiste un progetto disgraziato, secondo me, che si chiama Life Ursus, che 20 anni fa o giù di lì ha importato gli orsi dalla Slovenia, perché nella visione di Heidi della provincia ci doveva essere l'orso che leccava il miele, le margherite. E infatti Fugatti adesso li vuole abbattere anche questo. E certo, perché ogni favola ha il suo lieto fine. Guarda Cappuccetto Rosso, Fugatti è come la nonna di Cappuccetto Rosso. Adesso li ha fatti venire questi orsi, non li ha fatti venire, lui è un orde vero, ce li ha trovati. Però si fanno venire gli orsi in una comunque zona che tu non hai detto che gli orsi non aggrediscono. È vero che questi stessi hanno detto, incredibilmente, dopo che si è alzato sulle zampe poi se n'è andato, avrebbe potuto sbranarci, invece ci ha come spaventato. L'orso rompono le palle, l'orso è più intelligente di quello che pensiamo noi, e l'orso ma comunque dicono dicono così di tutti gli animali. Se arriva lo squalo, dicono che devi far finta di niente. O dagli un pugno, è difficile, devo dire che è difficile, per esempio. Lo squalo, essendo quanti squali ci sono al mondo, di quanti assalti all'uomo da parte dello squalo avete notizia in un anno nel mondo? Sì. Allora, ma io, infatti, non sono uno di quelli che. Se monopatti non rischio di più? Se io esco in monopattino da casa mia rischio di più, e allora santi Dio, ma lasciamo state pure bestie, dai. Allora, dai, viva gli orsi, come dice sempre mio figlio Mattia, anzi lo vuoi dire in diretta, è arrivato qua, viva gli orsi? Viva gli orsi, ecco, lo dice anche Mattia. Carla Rocchi sarà contenta, andiamo a sentire le informazioni sul traffico. Grazie Carla, ciao, alla prossima. I sogni più belli sono quelli che scegli con cura. Volvo V60. Select your dream. La station wagon Volvo è tua con le garanzie del programma usato Volvo Select. Auto con non più di 5 anni e 150.000 km, manutenzione certificata Volvo. E fino al 30 giugno. 24 mesi di garanzia e primo tagliando inclusi nel prezzo di acquisto. Soluzioni di pagamento personalizzate. Info e limitazioni su selectvolvocars.it. Volvo V60. Select your dream. Uno, nessuno, 100 Milan. Allora, signori, siamo qui per concludere la puntata di oggi di Uno Nessuno 100 Milan. Domani torneremo su questo tema perché so che ci hanno chiamato dall'Amadori. Domani li sentiremo sicuramente se hanno piacere per replicare. Insomma, il tema è molto appassionante. Chissà cosa ne pensa il nostro super sovranista italiano. Non mi interrompa. Allora, non ancora iniziato a parlare. Lei ha parlato ininterrottamente per 2 ore dicendo cose molto discutibili sulle quali posso essere d'accordo, quindi gentilmente non mi interrompo. Allora, sono Gianpaolo, detto Geppo Garosio, parola di Geppo. Allora, lei non mi interrompa quando sto parlando io, va bene, altrimenti abbandono lo studio, abbandono la trasmissione piegata ai poteri forti, anche lei è piegato. Allora, prima di tutto facciamo sentire, piegato. Oggi ce l'ha mandato così PSSI PC. Mandiamolo tutto gentilmente. Mandiamolo tutto in regia. Sentiamolo. Allora, questo è il Lino del partito super sovranista italiano, PSSI. Si pronuncia PSI. Eccolo qui, perché io ho fondato il mio partito, il super sovranista italiano PSSI PSI. Allora, io sono uscito dalla Lega. Grazie, ci sta questo applauso ai super sovranisti. Io sono uscito dalla Lega. Perché sono uscito dalla Lega? Perché Milan sono uscito dalla Lega? Non mi interrompa, Salvini è troppo moderato. Io sono uscito dalla Lega perché Salvini ha delle idee troppo moderate. Per esempio, lui dice che lo Stato deve. Allora, Salvini dice che lo Stato deve mettere dei buoni del tesoro per imprese e famiglie. Sbagliato? Dissento. Cosa ce ne facciamo dei buoni? Non mi interrompa, abbandono lo studio, chiamo i carabinieri. Addirittura. Ragazzi, appena Garosi dice una cosa... Chiamo i carabinieri. Se lei mi interrompe ancora, attenzione che la denuncio. Allora, i buoni del tesoro vuole Salvini. Cosa ce ne facciamo dei buoni che poi tanto ti dimentichi che scadono e non puoi più usarli? I buoni li vogliono solo i buonisti. I buonisti sono contro. Certo, è tartologico. I buoni chi lo vuole? Se lei non conosce l'italiano, vada a studiare sul devoto olio prima di giudicare quelli che parlano bene. Olio, e lei non l'ha mai visto sta olio, ignorante, deve venire qui a fare la morale. Chiama i carabinieri, attenzione, non mi interrompa, abbandono lo studio. Allora, i buoni li vogliono i buonisti, poi i buoni mica li prendono dappertutto, diciamo la verità. E allora cosa possiamo fare? Come al solito Garosio ha la soluzione, perché chi dice Garosio dice verità. Parola di Geppo. Allora, compriamo una di quelle belle stampanti 3D che ormai le usano anche i dentisti per fare le dentiere e ricominciamo a stampare le care vecchie lire. E sottolineo lire, non euro, così poi le spendiamo solo in Italia. Perché, come dice il proverbio, se vuoi un souvenir è meglio la gondola della Tour Eiffel. Questo dice il proverbio. Se lei non conosce i proverbi, vada sul devoto olio. Non possiamo mica star qua ad aspettare l'Europa, va bene? Aspettare quando c'era il lockdown. Ma dopo tanto non avevamo... Cos'ha da ridere? Guarda che chiamo i carabinieri. Lei era il lockdown. Allora... il lockdown, se lei non conosce l'inglese o le lingue generali, vada a studiare prima sì, di fare una trasmissione in radio, d'accordo? Ha capito? Ha capito? Attenzione, sì, attenzione, capito, perché una parola è troppa e cinque sono poche. Allora, quando c'era il lockdown potevamo stare in casa, ma adesso è ora di risolvere la cosa da soli. Cioè, mandiamo da Rino soli. Intanto, ci prendiamo una bella stampante, giusto, una bella così pausa. Possiamo stampare Rino? Tutti i soldi che servono, ma anche qualcosa in più. Ognuno si stampa i soldi che gli servono. È bello togliersi anche qualche sfizio. Dobbiamo toglierci anche qualche sfizio, una sedia a dondolo in rattan, un canguro in gesso, un costume da uomo imbottito, senza chiedere il permesso a nessuno, tantomeno ai poteri forti di cui lei è al servizio, di Adain con Supertrafà, diciamole tutte le cose. Perché cos'ha da ridere, si è piegato, l'inno, piegato, inno, piegato. Inno, mandiamo l'inno del PSSI, Partito Super Sovranista Italiano. I poteri forti, ecco, sentiamo. Mandiamolo tutto, Alpino. Alpino, tu e la tua penna. Allora, penna al servizio dei buonisti e dei poteri forti, penna piegata. Alpino alla penna piegata, altro che Alpino. Allora, i poteri forti. Ma lei ha qualcosa da dire di concreto invece di questo stream of consciousness? Le piace lei questo? Ce l'ha scritto sulla carta d'identità. Segni che particolari, piegato. Potere forte. E allora se lei cerca piegato. Di convincere, sì, l'ho vista, lei è piegato, l'ho vista. L'altro penna piegata, piegato. Penna piegata, sembra un nome di un capo, di un capo SIU, penna piegata, però piegata al potere forte, quella dell'Alpino. Allora cerca di convincere con i paroloni in inglese come recovery fund. Ma chi l'ha deciso che dobbiamo parlare in inglese? Al massimo, se proprio vogliamo, diciamo yes, ogni tanto te ne dico anche 10. Yes, yes, yes, yes. Yes, yes, yes, yes, yes, yes. So già parlare di inglese, così che non vi riempite più maroni. Suo garage, ecco, eh? Certo, beh, perché bisogna partire politico. Dal popolo, dalle cose semplici. È inutile. Senta, sai a che lei mi ha stancato? Ma è abbastanza stancato. Non mi interrompa, non abbia l'ardore di interrompermi, altrimenti lei io chiamo la forza pubblica, la denuncio, chiamo i pompieri. Attenzione che Garosio, chiamo i pompieri. Mi ha stufato. Io preferisco. Non vi ha stufato, ascoltatori? All'inglese, io preferisco le nostre origini, il latino, come dicevano i latini, cioè? mutuati mutandi. Se perché i mutuati sono i mutandi? Vale. Perché i mutui costano troppo. Senti, Alpino, penna dritta. Ma parla stronza! Penna dritta, sfuma per favore Garosio, penna dritta, Alpino, tiralo invece giù. Di parlare inglese. A me è veramente stancato, giù! A me è veramente stancato sto Garosio. Ecco, per la prima volta adotto la censura verso Garosio, perché veramente ci ha rotto, dai, ma con questo suo qualunquismo da strapazzo. Basta, va bene, dai, salutiamo Manera, ciao, a domani. Uno, nessuno.